9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Lo zoo comunale, lo zoo comunale. Lo sapete qual è lo zoo comunale? È quello in cui il capo della segreteria dei Bersani prendeva le tangenti. Di Bersani prendeva le tangenti. Il capogruppo dell'Italia dei Valori prendeva i soldi dei partiti. L'assessore Zambetti abbiamo appena preso da Alessandro Milan, grandioso, che mi precede su Radio 24, che non voleva candidare l'assessore, però se l'è beccato che prendeva i voti dall'Andrangheta. Poi l'UDC, vogliamo parlare della moglie del segretario dell'UDC, Cesa, che ha una società che si prende gli appalti in tutti i posti dove l'UDC è nelle giunte. Allora, il quadro è questo: centrodestra, PD, Italia dei Valori. Non voglio dire che sono tutti uguali, però lo zoo comunale sembra certo molto pieno, molto pieno, molto pieno. Mi dicono che sono diventato giustizialista. No, no, no. Vi ricordo le parole di, semplicemente, di un grande patriota americano, Thomas Jefferson. Quale paese può conservare le sue libertà se i suoi governanti non sono ammoniti di quando in quando che il loro popolo conserva il suo spirito di resistenza e lo esercita quando è necessario con tutta la durezza? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. Allora, vogliamo parlare del mondo migliore. Retroattivi tagli agli sconti fiscali. Cioè, il governo ha dichiarato, nella sua bella misura della legge di stabilità, di cui parleremo oggi, che le franchigie previste dal decreto per deduzione di detrazione sui redditi oltre 15.000 euro si applicano al periodo d'imposta già alle spalle. È incostituzionale. È incostituzionale violare così lo statuto del contribuente con disposizioni retroattive per decreto legge. Si viola l'articolo 23-53 della Costituzione. Per questo vi dico che lo Stato è ladro, non perché sono matto, perché voi siete abituati neanche a notare che lo Stato vi mette sotto i piedi. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, tu no. E vogliamo continuare con quello che ha deciso la Corte Costituzionale sull'illegittimità dei tagli per magistrati e supermanager pubblici. Si era stato disposto un contributo di solidarietà sopra i 90.000 euro del 5%, sopra i 150.000 del 10%. La Corte Costituzionale blocca. Non si può dire fare il blocco agli aumenti automatici dei magistrati. Non si può, non si può. È vero, alcuni alti papaveri pubblici si erano sottratti. Per esempio l'Agenzia delle Entrate scattava, la SOGEI no. Ma lo sapete voi, per esempio, che un giudice amministrativo comincia la sua progressione di retribuzione automatica, perché i magistrati in Italia hanno la progressione automatica della retribuzione e la iniziano i giudici amministrativi dal grado equivalente per la loro retribuzione di giudice di corte d'appello, quello che un magistrato ordinario ci mette 12 anni ad arrivare, ci arriva automaticamente pure lui, e non si tocca il loro stipendio, capite? Perché chi lo vuole toccare si becca l'accusa di essere contro la magistratura. Una magistratura che ha la progressione automatica di retribuzione è una magistratura degna di questo stato ladro. Vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, e nel frattempo, no, ieri, un altro magistrato, non basta l'Ilva che si sta spegnendo a Taranto, no, abbiamo anche sequestrato un bel cementificio a Colleferro di Ilta Cementi. Non ci facciamo mancare niente, perché a questo punto, di fronte alle inadempienze ambientali, dovunque la giurisprudenza dice si blocca con una bella ordinanza, si sequestra lo stabilimento e si chiude. C'è bisogno di più disoccupazione, no? Dopodiché io non critico i magistrati che dicono tuteliamo l'ambiente, ma la decisione di uscire dal cemento, da qualunque settore energivo, vivono con un'ordinanza cautelare è una roba che purtroppo descrive un paese avviato al declino. Nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Allora, l'ultimo caso prima di parlare del fisco e della legge di stabilità e del bilancio per le famiglie e le imprese italiane. Allora, DSM, una multinazionale olandese del farmaco, è a capo, in provincia di Caserta, nel sud, che sta peggio che mai in Italia. Ecco, la DSM si è rotta le scatole perché ha atteso più di 4 anni i contributi previsti dal contratto di programma sottoscritto con la regione Campania, cioè con la parte pubblica. Non si è visto niente. A questo punto la DSM olandese ha detto: beh, in un'Italia in cui le autorità pubbliche sono inadempienti e non rispettano i contratti che firmano, ci fanno venire qui dicendo che ci sono degli incentivi, gli incentivi non ci sono, ma non ci potevano far risparmiare il tempo? Una firma che non vale niente, quella del pubblico italiano, lo dice una multinazionale olandese. Secondo voi, tra i due io con chi sto, con l'olandese o con l'Italia che non onora la sua firma? Con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Allora, buon 12 ottobre, buon 12 ottobre, sfumiamo gli annacci e il nostro The End. Certo, ogni giorno c'è di chi ridà ragione al buon vecchio Thomas Jefferson, eh? Vi ricordate chi era Thomas Jefferson? E oggi, siccome è l'anniversario della scoperta dell'America, ne approfitto per qualche rinfrescata a un patriota fondatore del decentramento negli Stati Uniti, che è poco noto, non si studia, gli studenti italiani non lo conoscono molto. Thomas Jefferson era uno che diceva cose amare sul fatto che fosse insito nella parte pubblica una naturale tendenza a essere opaca, non trasparente e troppo spendaccione. E per questo diceva di preferire quella che usava una citazione latina, diceva: malo periculosam liburtatem quam quietam servitutem. Dice: preferisco la libertà un po' con i fuochi accesi sotto il sedere piuttosto che la quiete della servitù. E aggiungeva: ritengo che qualche ribellione di tanto in tanto, qualche ribellione popolare, diceva Thomas Jefferson, sia cosa buona e che sia necessaria al mondo politico quanto le tempeste lo sono a quello fisico. Perché in generale le ribellioni fallite mettono in luce le violazioni dei diritti del popolo che le hanno occasionate. Quindi ogni tanto che il nostro popolo si ribelli al politico è cosa buona e giusta. Queste sono massime eterne, secondo me, della democrazia dal basso. Oggi ci occupiamo in trasmissione di approfondire e capire a 24-36 ore della legge di stabilità approvata nottetempo, con l'annuncio poi che il governo aveva messo mano alla riduzione delle tasse, in realtà due mani: la prima che dice le due aliquote più basse dell'IRPEF si abbassano di un punto, ma l'aliquota generale dell'IVA e quella sottostante si alza di un punto, e quindi noi siamo passati in poco più di un anno dal 20 al 22%, passeremo di IVA. Nell'equilibrio generale degli effetti, a fronte anche della rimodulazione delle detrazioni, per di più retroattiva e incostituzionale, come mi avete sentito dire, che apprendiamo adesso dai testi di cui siamo in attesa deliberati, ma intanto apprendiamo essere parte del decisum, a questo punto abbiamo capito che a giudizio dei più non è affatto una manovra a saldo zero, ma è una manovra in cui il governo prende più di quello che dà tra imposte indirette e imposte dirette, e le imposte indirette sono su tutti, sono sul carrello della spesa, eccetera eccetera. Allora, abbiamo tentato in questa trasmissione di parlarne con due dei nostri punti di riferimento abituali, e il primo punto di riferimento, che è Giuseppe Bortolussi, come sapete il direttore della CGA, l'Associazione Artigiane e Piccole Imprese. Oltretutto, oltre che per questa ragione, lo abbiamo in trasmissione perché ho un invito da farvi. Ha scritto, dopo il libro che aveva scritto nel 2011, l'anno scorso, che era Tassati e Mazziati, e che era un libro che ancora adesso vi consiglio, ne ha scritto un altro che sta uscendo adesso, è per Sperling e Kupfer, che vi consiglio assolutamente di leggere, perché nelle 210 pagine si affrontano e smentiscono diciamo, almeno due fondamentali luoghi comuni del dibattito pubblico italiano. Il libro di Giuseppe Bortolussi si intitola Evasore d'Italia, la cura per sconfiggere il male del nostro paese, e i due luoghi comuni che vengono smontati facendo esami comparati dei paesi che spesso vengono citati da coloro che dicono che in Italia ci sarebbe la soluzione a portata di mano e invece non viene praticata, e vi spiega Giuseppe Bortolussi paese per paese, numeri alla mano, che sono palle quelle che vi raccontano. I due luoghi comuni che vengono smontati sono: primo, il grande luogo comune per il quale avremo ragione dell'evasione fiscale con il contrasto di interessi. Facciamo scalare a tutti le spese sostenute per l'idraulico, per dire, citando Lula, ed ecco che faremo emergere tutti i perfidi autonomi che non sono altro che dei turpi topi nel formaggio. Ecco, allora, caso per caso e impilandovi i diversi paesi citati a torto come i paesi in cui si può scalare tutto mentre in Italia invece no, ancora una volta Giuseppe Bortolussi, come tante volte ho fatto io, vi dimostra alla mano, esempi alla mano e non solo in punta di dottrina, come questa sia una palla, e chiunque la sostenga vi racconta di un Eden che in terra non c'è. Dopodiché il secondo luogo comune è quello sui numeri dell'evasione fiscale, i numeri dell'evasione fiscale e di come lo Stato lo affronti fino a questo momento, truccando parecchio le cifre. Allora, per questa ragione, ripeto, Evasore d'Italia, Giuseppe Bortolussi, leggetelo, perché prima di decidere di qui a qualche mese di chi dare il voto, se fate una lettura di questo tipo, capirete meglio come discriminare a vostra libertà e a vostro gusto chi racconta storie vere e chi ne racconta storie un po' adulterate su questa cosa dell'evasione fiscale. Allora, Giuseppe, ti ho fatto questa piccola introduzione, ma era dovuta, perché il libro mi ha veramente entusiasmato e si capisce che ci hai lavorato parecchio, perché fare il quadro di tutte le deduzioni e detrazioni dei paesi indicati come l'Eden quando non lo sono significa tirare giù un mucchio di legislazione, metterla impilata, comparata, quindi è un libro di numeri. Però grazie a Giuseppe Bortolussi di essere qui con noi oggi. Grazie a te dell'invito, Oscar, e grazie anche della presentazione. Mi hai quasi commosso. No, non ti ho commosso. Uno che fa questi lavori e li fa in questa maniera, con questa precisione, secondo me è una risorsa per noi tutti. Intanto perché i giornalisti iniziassero a leggerselo invece prima di scrivere dell'evasione fiscale quali sono i numeri. Però, detto questo, cominciamo con due bilanci che tu hai tirato giù in questa settimana. Il primo è quello di ieri, il bilancio degli effetti complessivi dell'intervento legge di stabilità, IRPEF e IVA. Sì. Beh, guarda, intanto diciamo una cosa, che prima di questa sorpresa notturna che mi lascia veramente molto perplesso, una sensazione del genere ce l'ho avuta proprio di violazione di quello che sono tutte le regole, ce l'ho avuta solo, guarda, quando hanno rapito Moro. Quando ho saputo che hanno rapito Moro, ho provato la stessa sensazione di essere fuori dal mondo, di non capire più nulla. E ti dico che però già prima di questa sorpresa notturna i dati, i conti non tornavano. Perché? Perché nella manovra Salva Italia, no, c'era questo dato molto importante che riportavano già, che un punto di IVA, no, cioè, costava qualcosa come 4,2 al cittadino, no? 4,2 miliardi. Dal 20 al 21, prevedevano già il 21-22, costava 4,2 miliardi, dal 10 all'11 costava 2,3 miliardi, quindi totale 6,5 miliardi. Lo sconto che danno sul invece IRPEF viene nel primo scaglione 4 miliardi, nel secondo 1 miliardo, quindi c'è uno sbilancio di 1,5 miliardi, quindi già allora c'era il trucco, senza contare che si sono dimenticati di una parte importante della popolazione. Al di là di ogni demagogia, ci sono tra gli 8 e 10 milioni di italiani che sono incapienti, cioè non pagano IRPEF, non la pagano perché hanno un reddito molto basso, di solito sotto gli 8 mila euro, qualcuno arriva anche di più perché magari ha moglie e figli a carico. Chi sono questi? E questi sono pensionati al minimo, sono magari una signora che lavora part time e mantiene un figlio ed è da sola, sono persone che appena uscite dalla cassa integrazione, cassa integrati, gente in mobilità, cioè quella parte del paese che soffre di più e che secondo me doveva essere salvaguardata. cioè, ma non per il principio costituzionale della progressività, eccetera, per un discorso di buon senso, e invece se ne sono dimenticati. Questi sono quelli che non solo non vengono aiutati, ma che pagheranno qualche decina di euro, per carità, in più all'anno, ma quei poche decine di euro stanno a significare che non hanno capito come funziona il nostro paese, come è fatto, non lo sanno. Mi spiego, questo è il guaio grosso. E quindi, se adesso ci aggiungiamo anche il discorso della franchigia sulle deduzioni e le detrazioni, il tetto massimo, e poi questa cosa, guarda, proprio mi ha scosso, ma mi ha scosso sta storia della retroattività. Se ne fanno proprio nulla, fanno proprio stracci della Costituzione, stracci, ma proprio anche dello Statuto del Contribuente, che per la verità non hanno mai rispettato, nessuno ha rispettato. Quindi ti dico, è un paese dove in pratica la parola giusta è: o noi ci ribelliamo, nel senso civilmente, nel senso di contestare con il voto quello che vuoi, o altrimenti siamo veramente sudditi. Siamo sudditi e non c'è nient'altro da fare. E tra l'altro i partiti, se non hanno un sussulto di dignità e non si oppongono a queste cose, perché qui il problema è, c'è anche di mezzo un aspetto di politica economica, mica da poco, cioè, scusate, ma se occorrono i consumi, perché questa è una crisi dalla parte della domanda, e tu invece di incentivarli in questa fase difficilissima in cui ci stiamo abitando, ma abitando in maniera dura nella recessione, non aiuti i consumi, specie dei ceti più bassi, dei ceti più umili, dei ceti che ne hanno bisogno, cos'è che fai? Ti riavviti ancora di più, cioè è proprio un errore tragico. Io uso dire questo, Oscar, che probabilmente il chirurgo è un bravo chirurgo, sai, lui sa fare, tra l'altro è un tecnico, gli hanno detto i politici che cosa fare praticamente, gli ha detto la BCE in versione politica cosa fare, e lui lo sta facendo anche bene, forse un po' troppo, adesso sta esagerando secondo me, però lo sta facendo. Ma il problema è che lui è un bravo chirurgo, l'operazione probabilmente riuscirà, ma se non danno un po' di ossigeno al malato va a finire che l'ammalato muore, mi spiego, questo è il problema per me. C'è un problema oltre che di tasse, oltre che di legittimità costituzionale, c'è un problema vivissimo, fortissimo di politica economica. Noi andiamo fuori se continuano con questo rigore a senso unico. Allora, io ringrazio anche la CGIA di Mestre Bortolussi, perché qualche giorno fa aveva aggiornato le stime del totale degli interventi e del saldo del totale degli interventi del governo Monti rispetto alle imprese negli anni a venire, nel triennio, e il saldo dei appesantimenti delle diverse imposte deliberate dal governo Monti a fronte poi delle misure invece di alleviamento deliberate sempre dal governo Monti, e un saldo anche questo purtroppo che vede le imprese col segno meno. E la CGIA di Mestre, mettendo insieme tutti gli aggravi che scatteranno dopo il 2012, ancora nel 2013, io ricordo che nel 2013 l'IMU, prelievo sui capannoni, aumenterà di circa l'80%, perché il coefficiente per la determinazione della base imponibile si alza, si alzeranno le aliquote previdenziali, che subiranno un ulteriore aumento dello 0,45% sino a portare per i lavoratori autonomi a salire ancora di più le aliquote, e così via. Se, facendo la somma di tutti questi aggravi previsti, il saldo complessivo calcolato dalla CGIA di Mestre è che ci sono 5 miliardi e mezzo di euro in più di imposte per l'impresa. Allora, questa contabilità, per così dire, Giuseppe, che bisogna sempre fare, perché anche il governo dei tecnici da questo punto di vista non si sta dimostrando troppo diverso dal governo dei politici, dicono sempre che c'è un segno in più laddove uno poi si fa bene i conti e scopre che c'è un segno meno. Perché secondo te anche i tecnici stanno cadendo in questo tipo di illusione ottica, di questa illusione finanziaria data al paese? Noi non siamo come gli altri, vi portiamo un segno in più, poi ti fai la somma e il segno in meno. Oscar, secondo me c'è una cosa che la dice lunga. Questo sgravio dell'IRPEF, dei primi due scaglioni, che gran parte della gente crede siano solo per i due scaglioni, no, ma si riflettono anche sugli altri tre di scaglioni, quindi non è a favore solo dei ceti meno abbienti, è a favore di tutti. Per esempio, secondo me è la dichiarazione di intenti del governo Monti, forse non sua personale, di lui, Mario Monti, ma di qualcuno del suo governo, sì, è come una candidatura. Cioè tu dici è un segnale politico per le elezioni che arrivano? È un segnale politico molto importante, è come dire, vedete, noi siamo riusciti senza fare tanti annunci, anzi avevamo detto di no, vi abbiamo abbassato le tasse, peccato che non sia vero, peccato che le abbiano in realtà aumentate, ma vedi, c'è un altro discorso, secondo me questo governo di tecnici si sta politicizzando in fretta e sbagliando anche politica, perché vedi, quei 5 miliardi e mezzo di sbilancio a costo per le imprese grava soprattutto sulle piccole, perché vedi, le piccole, quelle con uno o due dipendenti, abbiamo visto noi, abbiamo una piccola statistica, non hanno molti casi di giovani al di sotto dei 35 e di donne, ce le hanno più le aziende più complesse, quelle che hanno magari 100, 150, 200 dipendenti, e da una nostra stima spannometrica finché vuoi, gran parte di questo peso verrà spalmato sulle piccole, piccolissime, che sono quelle che, ti ricordo sempre questo dato, mi scuso se mi ripeto, ma l'Unione Europea ha dichiarato che negli ultimi 10 anni il 58% dei nuovi posti di lavoro le hanno create le aziende al di sotto dei 10. Ora credo che l'economia esista, vale la pena di essere coltivata, di dedicarci tempo se è a servizio dell'uomo, e l'occupazione per me in un'economia è la cosa più importante, è il segnale più importante, più della produzione se vuoi. Perché a volte si può produrre molto, ma con meno occupazione se non la crei in altre parti. E allora, sto discorso dell'occupazione è fondamentale, ma chi vanno a punire? Le piccole e le piccolissime. È la solita storia, perché secondo me questi non hanno esperienza della vita quotidiana. Cioè, anche Mario Monti, che è una bravissima persona, che cerca di fare il suo meglio, certamente vive in un mondo iperuranio, vive nel mondo della finanza, hai capito? E non conosce la realtà produttiva italiana, di che cosa hanno bisogno effettivamente le imprese, ma anche, secondo me, le famiglie. Questo è il difetto più grave. D'altra parte, sai, i tecnici, in questo caso, Monti è un dictator, mi spiego? Un dictator di stampo latino, viene chiamato per mettere a posto le cose e dopo se ne dovrebbe andare. Se rimane, non è più quella figura immacolata che qualcuno vorrebbe o che qualcuno dice. Ma questi signori qua hanno già infranto, secondo me, le regole appunto di questo dictator, perché intervengono troppo, perché partecipano troppo, dovrebbero parlare con i fatti, e secondo me non hanno intenzione di andarsene, troveranno un modo per riciclarne una buona parte, non che la politica abbia dato buona no, prova la di pessima sé, della verità, pessima e lo vediamo, pessima, per cui però non è neanche giusto perché la politica si è comportata in maniera pessima passare dall'altra parte. Vogliamo una politica buona. Esatto. Vedi, sì. Cos'è che manca a questo governo? E finisco. Manca la gente qualsiasi, manca alcune figure. Cioè quelli che una piccola impresa vera l'hanno vista da qualche parte nella vita. Insomma. Sì, l'hanno vista, ma magari di passaggio, ne hanno sentito parlare, parlano di evasione, parlano di chi le tasse le paga veramente. Sì, ma c'è anche gente al governo che dirigeva una banca che ha concordato pagamenti di qualche centinaio di direi milioni. Direi di sì. Allora vedono sempre il mondo dall'alto. Allora, Giuseppe, io ti devo interrompere che dobbiamo andare in pubblicità, però l'impegno è che io ti richiamo presto, perché del contrasto di interessi, come prevedevo, che ho citato all'inizio come uno dei luoghi comuni che smonti numeri alla mano in questo libro Evasori d'Italia, che intanto dico a tutti ancora una volta leggetevi, per Sperling e Kufir di Giuseppe Bortolussi, dobbiamo riparlarne in una puntata, cioè dobbiamo prenderci la briga di dare una risposta a tutti i cittadini che sono convinti che il contrasto di interesse sia la manna per risolvere l'evasione e che non si applica solo perché la politica sta dalla parte degli evasori. Allora, io presto ti richiamo la prossima settimana e dedichiamo un'ora intera a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Come e perché questo è il contrasto di interesse, sostenuto anche da tante persone per bene, è una palla infondata. Quindi Giuseppe, preparati, perché ci risentiamo la prossima settimana. Noi siamo in pubblicità e poi torniamo col professor Raffaello Lupi, sempre su questa storia del bilancio complessivo meno IRPEF ma più IVA, e soprattutto di questa sorpresa che abbiamo appreso ieri sera sera, quella per il quale la stangata sulle deduzioni e detrazioni parte subito perché è retroattiva, incostituzionale. È la solita storia dello Stato confuso e ladro, e ladro prima ancora che confuso. Allora, San Serafino, ma bisogna essere veramente un serafino per non urlare di fronte al fatto che abbiamo preso dopo 24 ore forse la vera ragione del perché i due punti delle aliquote più basse e l'IRP sono stati abbassati insieme al, purtroppo, alla sorpresa dell'aumento delle due aliquote IVA, quella generale e quella sottostante, perché in realtà scattava retrospettivamente, in violazione dello statuto del contribuente, la stretta sulle deduzioni e detrazioni che si aggiunge agli aggravamenti d'imposta previsti dalle manovre triennali. Allora, su questo il parere di un altro dei nostri lumi in materia di semplificazione, e guardiamo le cose come stanno, chiamandole col loro nome invece di perderci nelle tante chiacchiere sulle questioni tributarie, cioè il professor Raffaello Lupi. Buongiorno professore. Salve. Allora, qual è il suo, la sua impressione sul combinato disposto IRPEF IVA e lo scatto di deduzione e detrazioni che lei già da molto tempo, chi va sul suo sito ne ha la conferma, aveva indicato come, diciamo, questa eredità di Giulio Tremonti, come un taglio percentuale indiscriminato senza interventi selettivi? Lei ne parlava da molto tempo. Ci siamo e siamo arrivati. L'effetto qual è, secondo lei? L'effetto è un aggravamento, ci sono più imposte, questo è fuori discussione, solo che era nato molto più grave, cioè ci hanno fatto un po' di cresta, adesso dai conti che diceva Bortolussi, mi sembrava che il saldo netto fra IVA e IRPEF e oneri detraibili tagliati, quanto veniva? Un paio di miliardi, sì, o di più? No, un paio di miliardi, bisogna vedere bene gli effetti di tutti i limiti alla deduzione e detrazione. Un paio di miliardi è al netto della stima della pura manovra sulle aliquote, per così dire. Con la deduzione e detrazione dobbiamo fare i conti facendocele bene. Perché non si sanno gli effetti, le spinte e controspinte. Comunque ci hanno fatto un po' di cresta, però volevano andare sui giornali dicendo abbiamo tagliato le tasse. Se vedete l'apertura di Repubblica di due giorni fa, a Monti taglia le tasse, avrebbe dovuto dire è stata pagata la cambiale del governo, cioè era una cosa neutra, cioè se non ci fosse stata la legge dell'anno scorso questi non avrebbero fatto nulla e avrebbero fatto bene, cioè probabilmente non potevano far finta di niente rispetto alla scadenza del taglio delle agevolazioni, cioè di quelle cose che non si potevano fare, ma con cui il governo precedente è andato in conferenza stampa a dire che abbiamo fatto questa cosa, l'anno prossimo aveva passato la patata bollente. Non ne sono venuti fuori male sul piano mediatico, ovviamente, come dicevate prima, c'è la fregatura. Cioè il saldo è di un nuovo carico fiscale, ci mancherebbe altro. Sugli oneri deducibili però la cosa della retroattività è discutibile, è vero, è contro lo statuto del contribuente, però il 2012 è in corso, quindi tutto sommato non è, cioè questo succede sempre sulle imposte di periodo, cioè nel corso dell'anno io ti cambio le regole. È discutibile, lo statuto del contribuente, capito, è discutibile, però è sempre cambiare le regole nel corso dell'anno, certo. Non è molto fair, cioè non è bello, non è bello, però tu i soldi li tiri fuori a maggio dell'anno dopo, però è allora che sia contro lo statuto del contribuente non c'è dubbio. Che sia contro la Costituzione, insomma nella Costituzione in realtà sul tributo c'è scritta una dichiarazione di principio che avrebbero anche potuto non metterci, insomma, però comunque non è bello, siamo perché io sono andato dal dentista pensando di potermi dedurre il 19%, non va contro il contrasto di interessi, anche se siamo tutti d'accordo con Bortolussi, infatti stavo per applaudire, prima mi avevano collegato, il contrasto di interessi come ho scritto su giustizia fiscale, come ho detto, è una balla, però uno era andato dal dentista pensando di dedursi il 19%, adesso non se lo deduce. Allora, perdoni, io faccio anche, professor Lupi, osservare che se ho capito bene le norme, perché naturalmente bisogna vedere bene i testi, eccetera, eccetera, mentre l'effetto, ovviamente, di rimodulazione, deduzione e detrazione con franchigia è sul esercizio in corso, anche se si paga l'anno prossimo, però interviene cambiare le regole mentre noi stiamo producendo questo reddito, e per i lavoratori privati l'effetto invece della diminuzione dei scaglioni persona fisica è dall'anno prossimo, invece questo non è per i lavoratori per i pensionati, per esempio. Per i pensionati si dice che già quest'anno passa la riduzione delle aliquote IRPEF. Allora, a me che lo Stato si metta a fare questa scelta, e da quello che capisco io, professore, lo fa guardando i saldi di cassa da garantire quest'anno e l'anno prossimo, e decide lui, tu sì, tu no, tu quest'anno questo, tu l'anno prossimo quest'altro. Le detrazioni a tutti in meno, poi a chi dare qualche cosa in più, cioè lo sgravio sull'aliquota 2 più bassa della pressione delle persone fisiche, distinguo io in provvedimento a chi. Anche questa cosa a me sembra francamente intollerabile, nel qual caso non voglio sembrare uno che attacca i pensionati, mi fa piacere per i pensionati, non capisco perché però loro sì e io no, e così via. Perché i pensionati poverini, cioè la politica, infatti io prima sentivo Bortolussi che diceva bisognerebbe mandare al governo uno che è andato a fare la spesa, no, io stavo per dire Monti non è mai andato a fare la spesa, infatti ve lo sottoscrivevo in pieno, però prendere uno che amministra una fonderia e sbatterlo a organizzare l'organizzazione della macchina pubblica con tutte le spinte, controspinte, le critiche, la gestione mediatica, cioè non è mica facile. Qui loro hanno cercato di barcamenare, cioè il politico strutturalmente si barcamena in termini di buonsenso, non è Dio, cioè anche da quello che diceva Giuseppe mi sembrava che ci fosse una grande critica verso la politica, al tempo stesso una grande aspettativa verso la politica, come quelli che ai convegni dicono sì, i politici sono tutti ladri, a proposito abbiamo qui l'onore e il piacere di avere il sottosegretario a cui chiediamo che la legislazione ci risolva il problema, cioè hai capito la contraddizione immanente. Beh, chiaro, nell'opinione diciamo pubblica. L'imperfettismo al quale noi aderiamo invece ci dice che non è così, e questo è, si vede che sono tutti imperfetti, diciamo dai tecnici però forse magari un pochino di i tecnici non sanno gestire la comunicazione, cioè la politica è fatta di coesione sociale, di consenso, cioè non è fatta di integrali e di modelli economici, cioè la politica è un mestiere che recepisce le sensazioni dell'opinione pubblica che sono tante e contraddittorie, le medie spara qualche cosa, è quello che hanno fatto con sta cosa dei pensionati che dicevi un attimo fa, sì. Dice vabbè i pensionati non ci stanno soldi, come mediamo? Beh i pensionati glieli diamo subito e gli altri no. Allora mentre parte This is the end, come vedete ogni giorno sempre con ferme, una risposta ad alcuni ascoltatori che dicono ma perché parlate così male del governo Monti, così rivalutate Berlusconi, ma cosa c'entra ragazzi, cosa c'entra, cioè Berlusconi è finito travolto dalla mancanza di credibilità internazionale sui mercati e coi partner europei, ma cosa vuol dire, il mestiere qua è farvi capire, se ci sono dei provvedimenti fiscali farvi capire che sono retroattivi, cioè in violazione dello statuto per la parte che riguarda i limiti deduzioni e detrazioni stabiliti da prima, annunciati come un intervento monster per recuperare molta finanza pubblica, mirati ma sempre di stretta si tratta, dall'anno in corso, dall'anno prossimo invece gli interventi sull'IRPEF, il cui saldo però per l'aumento dell'IVA è negativo e non è positivo come detto dal governo. Stiamo tentando di farvi capire almeno l'ABC di quello che è finito sui giornali, come invece la svolta epocale, Monti taglia le tasse, e direi proprio di no, ecco, non c'entra niente criticare e capire ciò che si scrive nei provvedimenti rispetto a dire allora siete amici di Berlusconi, allora non c'entra nulla, non ragionate così, per favore, prendete sul serio quello che vi dico, che di sicuro Giuseppe Bortolussi e Raffaello Lupi a tutti pensano nella vita, tranne che fare un favore retrospettivo per di più a Silvio Berlusconi. Allora sentiamo Roberto da Piacenza, che pensa Roberto? Buongiorno Oscar, la ringrazio comunque di essere attento a questi argomenti che vengono secondo me trascurati da altri. Allora, la mia opinione è questa. Io ho fondato un'azienda quest'anno e ho assunto a tempo indeterminato. A me quello che spaventa davvero non è l'aumento intrinseco delle tasse. Quello che a me spaventa è il potere d'acquisto che diminuisce a causa di un'inflazione indotta da questo aumento dell'IVA. che porterebbe secondo me a un'ulteriore diminuzione dell'indotto economico, e quindi quello che a me spaventa l'anno prossimo è di avere meno lavoro, non di avere più tasse da pagare. Allora, questa è una domanda per il professor Lupi, nel senso, allora, si dice qui da anni la politica si era mossa in maniera bipartisan verso dire tassiamo più le cose, cioè quindi imposte indirette, l'IVA, e meno i redditi. Allora, domanda, alzare l'aliquota generale dell'IVA è una di quelle delle due sottostanti, quelle agevolate, quando si è in presenza di un calo del reddito disponibile, che è il più grave dal secondo dopoguerra, della parte del reddito disponibile in calo volta ai consumi, che è la più grave dal secondo dopoguerra, e qui siamo quasi vicini a un meno 4 quest'anno dei consumi, è il momento giusto per alzare poi l'aliquota generale dell'IVA, quando poi in realtà non lo si può fare alleviando di molto l'imposta sui redditi? Perché quella sarebbe una cosa diversa, sarebbe una cosa strategica, dire alziamo l'imposta indiretta anche parecchio, però alleviamo molto quella sui redditi delle persone fisiche. Quella è una riforma così dire strategica. Qua invece si sta lavorando di tacco e punta, per così dire, tant'è che vedete che i saldi sono rilevanti, ma non quanto sconvolgenti. Ma l'effetto, quando si è in contrazione di domanda e di consumi così forte, di alzare l'IVA, non dovrebbe essere sconsigliato, come ci dice il nostro amico imprenditore? Beh, ci sono tantissime variabili che influenzano i consumi. Se uno sta bene di famiglia, ha un reddito crescente, del punto percentuale sull'IVA se ne sbatte elegantemente. Se uno è un precario a 1000 euro al mese e deve pagare l'affitto, non consuma, anche se l'IVA dal 22 gliela portiamo al 12. Cioè bisogna guardare nel complesso i fattori che influenzano il consumo. Adesso, quanto peserà davvero l'aumento dell'IVA sui prezzi, quanto assorbiranno i venditori, quanto aumenterà il commercio informale che quindi dell'aumento dell'IVA si disinteressa, non lo possiamo dire, cioè dobbiamo cercare di tenere presente tutti i fattori che influenzano i consumi. Sicuramente una cosa è che l'IVA spara nel mucchio e quindi è meglio rispetto agli interventi selettivi sui redditi, nel senso, io quando sento dire gli evasori, no, l'idraulico, questa è una cosa importante su cui sta chiudendo loop. L'IVA è per tutti e per questo da molti viene invece attaccata, ma è preferibile al politico che sceglie su chi gravare. Guardate che questa è una grande verità. Nel frattempo io direi che l'IVA può anche alzarsi di parecchio, ma bisogna di molto, però a quel punto far scendere la pressione fiscale sui redditi. Purtroppo abbiamo esaurito il tempo, grazie anche a Raffaello Lupi, dopo Giuseppe Bortolussi. Con noi l'appuntamento è come sempre a lunedì.